30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. I cittadini della Bosnia Erzegovina potranno entrare nei paesi dell'UE senza visto. La decisione è stata presa all'unanimità dal Consiglio dei Ministri Europei degli Interni e diventerà operativa entro dicembre. I cittadini della Bosnia e dell'Albania dovranno essere dotati di passaporti biometrici. La Commissione europea, dal canto suo, ha preso l'impegno formale a monitorare l'andamento dei flussi migratori dai due paesi dei Balcani verso l'UE. In caso di anomalie, potrà chiedere provvedimenti restrittivi. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque parliamo di Bosnia Erzegovina e lo facciamo con Luca Leone, giornalista, scrittore, autore di Bosnia Express, un libro intorno alla politica, alla religione, al nazionalismo, ma anche, come leggiamo nella copertina, alla mafia e alla povertà in quel che resta della Porta d'Oriente. Bosnia Express è pubblicato da Edizioni Infinito. Luca Leone, buongiorno, grazie di essere con noi. Buonasera, buonasera a voi. Insomma, parlare di Bosnia oggi sembra evocare qualcosa di lontano e probabilmente anche in parte di rimosso nella coscienza dell'Europa intera. 20 anni fa non si parlava d'altro, anche se se ne parlava anche allora in maniera molto confusa, difficile focalizzare. Si parlava di un mondo che in quasi impazzito, in cui parti, genti, popoli si accanivano l'uno contro l'altro. Poi abbiamo imparato a capire col tempo che le cose erano diverse, da un lato più complesse, da un lato molto più organizzate, che c'era aggressori ed aggrediti, ma ci è voluto molto tempo. Oggi lei è tornato in Bosnia per raccontare appunto quello che c'è oggi in questo paese, nel cuore di fatto dell'Europa balcanica. Innanzitutto, perché Bosnia Express? Ma perché ho cercato di raffigurare la Bosnia come quello che credo sia, cioè una sorta di treno sburfante e ansimante a rischio di deragliamento in qualunque momento. Il Bosnia Express è il treno che sta da pochi mesi ricollegando Sarajevo con Belgrado. Come quindi è un treno vero in realtà. È un treno vero, un treno che esiste, anche se in realtà poi il come nel caso della Bosnia è un treno trainato da una locomotiva sbuffante che impiega 8 ore a collegare Sarajevo con Belgrado. Ci riesce, la notizia è che ci riesce, come succedeva in passato. Bisogna capire adesso se il treno dell'economia, della politica, della cooperazione riuscirà in qualche modo a trainare questi vagoni un po' scassati della Bosnia-Herzegovina, oppure se il paese è destinato alla fine a deragliare. Questa è un po' la grande scommessa. Ecco, ne parleremo subito, ma vorrei chiederle una cosa su questo espresso 451, appunto, che collega le due capitali. Lei scrive alcune pagine e devo dire un passaggio mi colpisce. So che è un mondo complesso di divisioni e differenze, non immaginavo che potesse arrivare al dettaglio delle carrozze. Com'è composto questo treno? Beh, allora, intanto facciamo una piccola premessa. È un mondo di differenze anche forti, anche stridenti, perché c'è qualcuno che vuole che sia un mondo di differenze. In realtà quando si ha a che fare, quando si incontrano le persone della strada, le persone comuni, le persone come me e lei, queste differenze sono molto meno stridenti e molto meno evidenti. Il problema è che ci sono delle forze nazionaliste che lavorano ogni giorno premono per fare in modo che queste differenze si acuiscano e che purtroppo anche molto spesso, non soltanto i media locali ma anche i media internazionali, inclusi quelli italiani, lavorano per passare messaggi molto spesso non veritieri. Per quanto riguarda sì, il treno è, beh, se vogliamo, un po' la metafora di quella che è la Bosnia oggi. Il treno collega, dicevamo, Sarajevo con Belgrado. Per farlo passa attraverso 3 paesi, la Bosnia, la Croazia e la Serbia. E in ogni paese mette a disposizione una sua propria carrozza e nel passaggio da un paese all'altro viene smontata la motrice e viene montata la motrice di quel paese. Il risultato è praticamente la Bosnia, ma sono praticamente i Balcani di oggi, dei paesi separati, delle realtà separate tra loro, non per volere, non per volontà della gente, ma per volontà dei politici che governano questi paesi. Ecco, in Bosnia Express lei insiste su quanto ci ha appena detto, cioè le divisioni non sono, come dire, presenti con tanta evidenza sul territorio, ma sono costruite. Questa è in fondo la logica che ha determinato appunto il disastro degli anni 90. 20 anni più tardi sono ancora forti queste forze di divisione, di nazionalismo, di estremismo e di separazione? Allora, queste divisioni sono... Diciamo, le divisioni come le vediamo oggi, come le scopriamo e le viviamo oggi, sono il risultato del lavoro di propaganda fortissimo fatto prima dello scoppio della guerra, quindi nella seconda metà degli anni 80 e poi all'inizio degli anni 90, e che hanno portato poi allo scoppio della guerra. Diciamo che in realtà le false cause del conflitto, questa divisione, questa impossibilità di convivere inventata a tavolino, è oggi diventata una conseguenza tangibile del conflitto stesso. Quindi ciò che è stato inventato a suo tempo oggi è diventato in qualche modo invece una cosa tangibile e reale, però non lo è in modo così diffuso e così definitivo. Ogni giorno ci sono forze che attraverso la televisione, attraverso i giornali, attraverso la propaganda fanno sì che vengano infocolati queste separazioni, queste differenze che in realtà, ripeto, la popolazione non è che senta particolarmente, anche perché oggi i bosniaci, qualunque sia la loro nazionalità di appartenenza, sentono altri problemi come molto più presenti e molto più forti, a cominciare da quello di arrivare a fine mese e di poter mangiare, perché la Bosnia di oggi è un paese in cui il 40% della popolazione non ha un lavoro, è un paese di poco più di 4 milioni di persone in cui la popolazione attiva è 1.200.000 persone, 500.000 delle quali disoccupate, quindi oggi 700.000 persone stanno tirando il carretto. In un contesto del genere chiaramente la gente non pensa al nazionalismo, sono i nazionalisti che approfittano della situazione di indigenza e di bisogno per cercare di creare nuove separazioni che alla fine servono soltanto a loro per continuare a tenere in mano il paese, anzi direi a tenerlo in scacco. Sarajevo naturalmente al centro della Bosnia e d'altra parte così lontana dalla Bosnia di quanto può essere appunto una città multiculturale, multietnica, multireligiosa, una città in cui anni fa, ancora prima che questo accadesse, l'appartenenza religiosa degli individui non era al centro delle cose. Oggi che cos'è Sarajevo? Ma oggi allora continua ad essere senz'altro una città in cui la libertà di culto è largamente praticata, una città in cui non soltanto sono ben presenti e ben visibili e vicine una all'altra la cattedrale cattolica, quella ortodossa, la moschea, la sinagoga, ma in cui anche le minoranze rom, testimoni di Geova ed altri hanno libertà di culto. A differenza però del passato, quindi del passato intendo di 20 anni fa, quindi prima che scoppiasse la guerra, Sarajevo non è più la città multinazionale, fucina di cultura e di creatività che era un tempo, è una città che ha subito una emorragia di persone, una città che aveva 600.000 abitanti prima della guerra e che durante il conflitto ha visto la sua popolazione scendere sotto i 300.000 abitanti, una città in cui le tantissime persone, molte delle quali laureate o comunque appartenenti a, come dire, alle classi più in vista dal punto di vista culturale, non sono più tornate, quindi continuano oggi ad alimentare la diaspora bosniaca, quindi è una città in qualche modo in ricostruzione, perché è una città che deve assorbire e che deve dare fondamenti di convivenza a 200-300.000 persone venute da fuori, venute dalle campagne, che hanno una esperienza urbana molto, molto limitata. È però una città al contempo, anche per questo Sarajevo non è poi così rappresentativa oggi dell'intera Bosnia, è una città largamente musulmanizzata, tra virgolette, nel senso che il 90% passa della popolazione di Sarajevo oggi è musulmano, per cui non è più al momento la città quell'esempio di condivisione multiculturale che c'era una volta. Sì, che ecco, non vuol dire che non possa tornare estero, perché non assolutamente. Che, ad esempio, Sarajevo è stata difesa durante la guerra da oltre 10.000 serbi, mentre gli ultranazionalisti serbo-bosniaci bombardavano su dalle montagne. il vice capo di Stato Maggiore e comandante della difesa di Sarajevo era un serbo, Jovan Divjak. Insomma, sono... tra miti e anche stereotipi che hanno portato questa immagine di divisione assolute all'interno della città, ci torneremo tra un momento con Luca Leone, lo ricordo, Bosnia Express, un racconto, un viaggio a tappe proprio attraverso la Bosnia. 30 minuti in cronaca. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci nasconde, ci confonde e cambia. Qui c'è tutta la città, la mia. Ancora buonasera da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. La nostra notizia di apertura questa sera ci porta in Bosnia Erzegovina, ci porta in un paese naturalmente, come dire, legato al nostro passato recente, dovrebbe esserlo maggiormente anche al nostro presente per gli eventi drammatici, anche per la lezione probabilmente poco raccolta e imparata di quanto accaduto, di quanto costruito da una sistematica cultura dell'estremismo nazionalista per quanto è accaduto appunto in quella parte d'Europa negli anni 90. Ma insomma, torniamo a parlare, ne parliamo con Luca Leone che ha da poco pubblicato per Edizioni Infinito Bosnia Express. Leone, lei scrive: tra i molti stereotipi che facilmente hanno fatto breccia nell'opinione pubblica c'è senz'altro quello che vuole la Bosnia, essere un paese povero. Perché non è un paese povero la Bosnia? No, da quello che ho potuto sperimentare in tutti questi anni è esattamente il contrario. Le ricchezze della Bosnia sono tante, possono essere suddivise in vari settori. Senz'altro, dal punto di vista delle risorse naturali, la Bosnia è un paese ricco di materie prime come il carbone, come il ferro, come il manganese, come non ultimo il petrolio. Una ricchezza però potenziale, mi sembra di capire, anche dal suo racconto. Si parla di altissimi tassi di disoccupazione e di una complessità nella vita quotidiana significativa. La ricchezza è potenziale perché purtroppo in questo momento le risorse del paese in parte non sono minimamente sfruttate e in parte sono state totalmente appaltate al di fuori, quindi ad aziende straniere che purtroppo mettono le mani su queste ricchezze ma non creano posti di lavoro, al limite si limitano a conservare quelli già esistenti, quindi chiaramente queste ricchezze potenziali non vengono sfruttate, non vengono in nessun modo utilizzate a beneficio dell'occupazione e della popolazione, però le ricchezze ci sono, basti pensare oltre a quelle citate dal punto di vista delle risorse naturali, al turismo e all'architettura, all'archeologia, esistono delle vere e proprie meraviglie dell'umanità come la piccola città di Pociteli, assolutamente sconosciute al grosso dei visitatori internazionali, eppure Pociteli si trova a pochissimi chilometri in linea d'aria da Međugorje, dove invece ogni giorno si dirigono tantissime persone per questioni di pellegrinaggi religiosi. Ecco, vorrei chiederle proprio sul fronte religioso, Luca Leone, le gerarchie ecclesiastiche delle diverse chiese, delle diverse confessioni hanno contribuito negli anni 90 a coltivare le divisioni. Questo è naturalmente il mio punto di vista. Oggi qual è la situazione? La situazione non è particolarmente cambiata, anche perché i partiti nazionalisti hanno fondato proprio sulla religione il tentativo di dare una personalità ai nuovi paesi, ai sette paesi nati dal disfacimento della ex Jugoslavia. Ora, mentre in paesi omogenei dal punto di vista religioso e nazionale, come la Serbia, come la Croazia, è stato abbastanza facile fondare l'identità dei nuovi paesi sulla appartenenza religiosa, questo in Bosnia invece ha portato al sorgere di ulteriori attriti, perché fondamentalmente in Bosnia esistono due grandi appartenenze nazionali che poi si identificano dal punto di vista religioso, che sono quella musulmana e quella ortodossa, ma c'è anche una minoranza cattolica che rappresenta intorno al 12-15% della popolazione locale, che giustamente vuole e pretende la sua parte. E quindi l'operazione di creazione dei nuovi stati nazionali, andando a fondare l'identità di questi stati sull'appartenenza religiosa, che ha avuto successo in paesi omogenei, invece in paesi eterogenei dal punto di vista nazionale e religioso come la Bosnia, ha finito col diventare un boomerang, e ancora oggi la popolazione dopo 15 anni dalla fine della guerra ne paga drammaticamente le conseguenze. Come recepisce la notizia che abbiamo usato, diciamo, per arrivare oggi in Bosnia, proprio l'ultima della cronaca, cioè quella per cui i cittadini della Bosnia Erzegovina potranno entrare nei paesi dell'UE senza visto? In realtà questa è una notizia che riguarda particolarmente la componente musulmana bosniaca, perché sia i serbo-bosniaci che i croato-bosniaci sono qua tutti o quasi tutti dotati di doppio passaporto. Non avevano già questo problema? Non avevo questo problema, perché già in passato erano stati aboliti da parte della UE i visti sia per i cittadini serbi che per quelli croati. Ora, chiaramente non esiste ancora di fatto questa possibilità. Nel senso è previsto che entri in vigore a dicembre, entro dicembre. Entra in vigore a dicembre, laddove tutti i 27 dovessero dare singolarmente il loro consenso a questa misura. Esistono già una serie di resistenze in alcuni paesi europei, soprattutto nei confronti della Bosnia, che certa stampa vuole far passare a volte come una specie di fucina dell'integralismo musulmano in Europa, quando invece devo dire che non è sinceramente così. 15 anni fa Dayton, dunque gli accordi, la fine di fatto delle attività militari, è inevitabile la domanda sul bilancio di questi 15 anni. Purtroppo il bilancio è molto negativo perché quello nato a Dayton è una specie di stato transgenico, uno stato Frankenstein che di fatto oggi dopo 15 anni sta mostrando giorno dopo giorno l'impossibilità di utilizzare il sistema istituzionale ideato a Dayton per far progredire il paese. La Costituzione di Dayton, la Costituzione inclusa negli accordi di Dayton, fa oggi della Bosnia un paese assolutamente ingovernabile. La presidenza tripartita esprime un presidente della presidenza che dura in carica per 18 mesi e automaticamente chi poi sostituisce chi l'ha preceduto smonta tutto quel poco che è stato fatto in precedenza. A questo si aggiunge un governo statale guidato da un primo ministro e un parlamento statale, che però hanno poteri limitati, in quanto la Costituzione bosniaca prevede poi la divisione del paese in due entità, un'entità musulmano-cattolica, diciamo così, che poi si estende sul 51% del territorio nazionale, e una invece a maggioranza ortodossa, la Repubblica Srpska di Bosnia, che è sul 49%. A questo si aggiunge il fatto che c'è anche un distretto autonomo, quello di Brucko, che fino a poche settimane fa era sotto controllo internazionale, ora invece è tornato sotto controllo dello Stato bosniaco. Poi, mentre l'entità serbo-bosniaca è monolitica, quella a maggioranza cattolico-musulmana è divisa in 10 cantoni. Insomma, la complessità... In Bosnia oggi 4 milioni di persone sono governate da una costituzione nazionale, 13 costituzioni locali, ci sono oltre 100 ministri, 3 presidenti, un presidente della presidenza, è una situazione ingovernabile, ma la cosa in tutto questo forse ancora più grave è che questo sistema assurdo, abnorme, inesistente in qualunque altra parte del mondo, consuma ogni anno il 70%, tra il 65 e il 70% del bilancio nazionale bosniaco, quindi rimane soltanto il 30% di pochissimo, di nulla, perché abbiamo visto prima sono 700.000 le persone attive dal punto di vista lavorativo in Bosnia, per provare a dare uno stato sociale, la sanità, un minimo di scuola. La normalità, insomma, la grande maggior parte di tutto questo... Di questa parte appunto del denaro di fatto alimenta la complessità del sistema stesso. Io ringrazio Luca Leone, lo ricordo, autore di Bosnia Express, edito da Infinito, una lettura che vi suggerisco. Naturalmente, come dire, il nostro tempo qui si conclude, ma il tema è molto ampio e sarà sicuramente occasione di tornare su questo paese europeo di cui troppo poco si parla, troppo poco si sa. E magari cercheremo, come dire, anche noi di partecipare a un racconto corale che coinvolga di più questa parte della nostra Europa. Grazie ancora Luca Leone di essere stato con noi. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti. Bene, siamo arrivati alla conclusione, non mi resta che ringraziarvi, ricordarvi naturalmente www.radio24.it per sentire e risentire queste e le altre trasmissioni di Radio 24 e vi auguro naturalmente un ottimo fine settimana.